tuoi occhi pari, quel tuo sguardo un po' strano, ce li ho sempre davanti, quando guido il mio treno. Robertuccia ti amo, tu che mangi una mela con del parmigiano, quando arrivo mi cibo di te, che sei il mio melograno. Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Ho sbagliato. Scusate.